fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Per raccontarsi, per raccontare. Ciao a tutti, ciao. Io sono Mr. Dave e siamo in diretta qua al ristorante Convento di Lonato del Garda. E guarda, questa sera, come vi ho detto prima, come vi ho anticipato poc'anzi, io stavo mettendo a posto un po' di foto dell'anno scorso, eccetera, e mi siete saltati fuori voi, voi due, perché ho qua due personaggi, due persone, due amici, due... Era destino, mister. Esatto, sì, perché ho detto, è un po' che non si fanno vedere, perché Crema è un po' distante da Lonato del Garda, e ecco che sono saltati fuori questa sera dal cilindro magico. Vi presento Denise e Filippo da Crema, giusto? Sì. Esattamente da dove? Da Zappello. Zappello. Zappello, che è la piccola Parigi. È un, il nome è un programma. Che viene dato. No, in realtà è un piccolo borgo. Borgo. Quindi siete borghesi, due borghesi. Due borghesi. Sì, sì, sì. Che siete venuti qua a festeggiare il compleanno di Filippo. Esattamente. Sei diventato maggiorenne. Eh sì, oggi 18 anni. 18 anni, 18 anni. Portati benissimo. Portati benissimo, sì. Certo. Un po' più vicino al microfono, grazie. Inizierò a fare la patente nei prossimi mesi e niente, inizio ad avere questa responsabilità sulle spalle. Cioè, delle spalle sono spalle larghe, sì. Esatto, esatto. Non sarò più a carico dei genitori. Benissimo. Che il genitore Samarotto 1, sì, non so se ci starà ascoltando. Beh, se non ci starà ascoltando, glielo farete ascoltare. Facciamo un saluto a Samarotto, saluto, che sì, stasera è Giorgio, Giorgio, no. Giorgio, lo spacciatore di supposte. Esatto. Giorgio, adesso... Giorgio, mi fa ancora male il pensiero delle tue supposte, guarda. Che adesso però sai... Sono passati due anni. Sai che è andato, sai che è andato in pensione. Sì, sì, so anche che è diventato nonno. Sì. Di una splendida bimba che si chiama Valentina. Esatto. Che niente po' di meno la figlia di Denise, che è qua davanti. E Filippo, vabbè, che è appena diventato maggiorenne. Papà giovane, diciamo. Papà certo, giovane. Certo, assolutamente. Bene. E quindi cosa ci raccontate, oltre al compleanno di Filippo? Allora. All'onomastico di Denise? Allora. Abbiamo festeggiato, era un po' che non venivate qua. Possiamo dare due piccoli consigli. Sì, bello. A tutte le nostre ascoltatrici che magari diventeranno mamme. Bellissimo, mi piace. No? Quindi in questo momento apriamo l'angolo, come dire, aspetta un attimo perché devo fare mente locale. Ecco, allora in questo momento dobbiamo aprire l'angolo del... Come dire, apriamo un angolo... L'angolo femmini, ma diciamo di approfondimento. Ecco, apriamo l'angolo di approfondimento. Così. Sì, in questo momento parliamo e ci rivolgiamo a tutte le mamme. A tutte le mamme, a tutte le future mamme, insomma. E cosa dobbiamo dire alle future mamme? Dobbiamo dire che tutte le mamme devono essere felici, prima di tutto, e serene con se stesse per crescere il loro piccolo o piccola. E dopo quei 4-5 mesi che passano così riempiendo biberon dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, possono iniziare. Beh, non solo, perché dopo il biberon c'è anche il pannolino. E a volte sono, sono a momenti... livello radioattivo, sono momenti. Sono momenti un po' duri. Esatto, duri, puzzolenti più che altro. Calcola che con il latte sono meno puzzolenti. Pensa con le pappe. Esatto, sì, sì. Mi ricordo, non mi ricordavo più. Ormai i miei hanno 10, 11 e 12 anni. Per cui... Filippo sta facendo dei gestacci in questo momento. No, sì. Stavo salutando. Meno male che siamo anche in diretta video. Potevate dircelo. Non te l'avevo detto, ma... No. Comunque, okay. Passato... quindi, le pappe? Allora... Donne. Donne. Mi raccomando. Donne. Intorno è arrivato Rocco. È arrivato Rocco. Intorno ai 6 mesi preparate 180 ml / 200 di brodo di verdure. Mi raccomando di filtrarlo. Sì. Mettere inizialmente il mais e tapioca. eliminare il glutine. Quindi il riso fa tappo, ragazze. Il riso fa tappo, non fa fare la cacca. Mi raccomando. Mezzo, mezzo omogenizzato di carne bianca. Mezzo di verdure. Un cucchiaino di grana. Un cucchiaino di olio extravergine d'oliva. Bene. Bene. Questa è la pappa base che si può iniziare intorno al quinto mese e mezzo. Perfetto. Benissimo. Perché la descrizione. Un applauso a Denise. Per chi non era. Esatto. Questo è il consiglio di oggi. Queste cose, diciamo, sì, cioè, prendere, Non ero preparato. Questo è il nostro consiglio di oggi per pianeta future mamme. Benissimo, bravissima, mi è piaciuta. Pianeta future mamme, vi aspetta alla prossima puntata. E adesso continuiamo con la programmazione. Salutiamo questi amici che ci sono venuti a trovare da Crema. I soprannominati qua nell'ambito i Samarotti, mi raccomando. Sì. Però non venite a trovarci per l'ultimo dell'anno, mi avete detto. No, perché comunque c'è la Baby Baciu, la nostra Vale. C'è Valentina che vi sta occupando, certo. Direi che cominciamo a fare l'ultimo dell'anno intorno ai 12-13 anni. Potremmo portarla al convento. Va bene. Allora vi aspettiamo, però vi aspettiamo un po' prima da trovarci. Assolutamente. Così. Verremo con lei una sera e vi stupiremo. Va bene. Con effetti fantascientifici. Un bacione a tutti. E un saluto alla Vale. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Grande mister.